questo giorno, dove con i regali ci si ricorda di amare, un souvenir alla mia Valentina vorrei donare. L'ascoltava e la ballava da quando 5 anni fa era nel pancione. Buon onomastico, piccolina, da parte di quel pirla del tuo fratellone. Siamo 3 sorelle di Brescia e ti ascoltiamo tutti i giorni alle ore 18. Suonaci la tua bellissima canzone, La Passion, che ci piace un mondo. Benissimo. Grazie. Sera, mercoledì 14 febbraio 2007, ore 21, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca La Dolce Vita, Brescia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Elvira da Varazze. Ogni giorno spero di sentire il mio messaggio. Stasera ti affido solo due lettere semplici semplici da sussurrare al mio fidanzato Fra. Sì, sì, sì. Sì. Grazie maestro, sei la nostra colonna sonora da 8 anni. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. La pota. Domenica noche hemos volado con tus sentimientos rítmicos. Dedica Big Mouth Strikes a Georgina, que hoy cumple 23 años. Mira, pota, hola. Gigi D'Agostino. Filosofía inteligente. Melodía efervescente. Gregory. Lleida.

Gigi, mi hai fatto tornare alla mente un sacco di emozioni che nella vita quotidiana finiscono soffocate. Grazie. Stefano da Genova. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Un saluto da Cioppi e Raffi, con un lento violento, così camminiamo a tempo. A tempo. E un abbraccio a Dada Taz del forum gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom. È il cammino del Gigi D'Agostino. Vorrei salutare tutti i disfoni. Ma si dice disfoni o disfoni? Leggi bene, sennò ti estraggo le ginocchia o la poto. Vorrei salutare tutti i disfoni o disfoni di Pinarolo, che il 10 febbraio hanno camminato con te. Michael da Pavia. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. 3 3 3 6 4 3 6 7 6 6 2. Gigi, giuro che la prima cosa che farò appena avrò la macchina sarà quella di venire a una tua serata, a un tuo live, e ballare il tuo lento violento fino alla mattina. Sì. Andri 30. Gigi, mi fai ballare i timpani. Matteo 89. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Vorrei dedicare il cammino all'uomo della mia vita, Matteo. La gioia più grande della mia vita è stata quella di vederti crescere. E adesso che stai diventando un piccolo uomo, ricordati che a ogni passo che farai nel tuo cammino non sarai mai solo. Ti voglio bene. La tua sorellona Martina. Sono legato, frastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato. Sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, e come un soldato Gigi D'Agostino. Musica che unisce. A San Valentino nacque un signore, un bravo bambino, conosciuto con vigore, nobile cuore, un animo vero, che dona colore, con animo sincero. Auguri Mario, Tony, Gigi D'Agostino si aggrega e un augurio slega al suo amico, ormai coetaneo, Mario, un forte abbraccio, anzi, un paio. Colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Massimo. Vorrei dedicare alla mia principessa reparto pelle d'oca, perché lei è always in my mind. Martina, ti amo. Ti amo. Sono per tutto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Sono Albi da Savona. Il 3 marzo è il compleanno del mio amore e vorrei regalargli una serata in compagnia della tua musica. Dove sarai? Fai un po' con l'info. Il 3 marzo Gigi D'Agostino suonerà in Danimarca. Ci vediamo lì. Thank you. benvenuti nel mondo che non c'è. Ciao Gigi, puoi suonarmi Digital Dream? Certo. Dedicala alla mia compagna di live, Chiara, che sabato compie 20 anni. Auguri. Officina emotiva. Sabato 17 febbraio 2007, ore 22. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca 24.000 baci. Latina. Suonami il remix di Clocks. Grazie. Rosy Tanz. We'll be right back.

Ciao Gigi, sono Giamba. Purtroppo in questo periodo in famiglia le cose vanno molto male. Suonami lo sbaglio per mettermi un po' su di morale. Grazie Gigi. Sabato è il mio compleanno. Compio 20 anni. Vorrei tanto esaudire un grande desiderio: vederti e darti un grosso bacio. Gigi, dove sei? Anna Maria. Non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Beh, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo fa? Quando è che sbaglia? Quando ci dona o quando ci toglie? Chi lo sa? Quando mi sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, sai per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Volevo dire al mio angelo di non volare via. Sarei disposta a dargli il paradiso pur di non perderlo. Tare, ti amo. Letti. Il 14 febbraio è il mio compleanno, è la festa degli innamorati. Vorrei ascoltare come regalo la canzone perfetta di tutti gli innamorati. L'amour toujours, Roberto Di Legnano. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. I'll fly with you. Gigi D'Agostino saluta con una pennellata e un colpo di martello Miki, Remmy e Damiana di Brescia, Simmi da Reggio Emilia.